Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non parleremo oggi del recovery plan, ossia del piano che l'Italia deve portare a metà ottobre nelle sue linee guida e poi a inizio gennaio nei dettagli, perché ci sono riunioni in corso a Palazzo Chigi e poi insomma qualche aggiornamento lo daremo, ma oggi non ci sono enormi novità. Parleremo invece di due temi di stretta attualità. Uno, alla luce anche, ve lo dico non perché lavoro nello stesso gruppo, della bellissima inchiesta fatta da Sole 24 Ore oggi sullo smart working, e cioè sulle aziende che hanno intenzione di mantenere una quota importante di dipendenti con un lavoro a distanza. Ma anche faccio notare che il decreto legge prevede che se uno dovesse avere un figlio in quarantena in automatico va in smart working, quindi non è discrezionale la cosa. Cercheremo di fare il punto anche perché il 15 ottobre sic stantibus rebus, cioè al momento attuale, scade il decreto di emergenza, la situazione di emergenza, e quindi da quello che abbiamo capito, se il governo non prorogherà la scadenza del 15 ottobre, a meno di novità normative, le imprese non potranno più decidere in maniera unilaterale la messa in lavoro agile, come si chiama in gergo, dei collaboratori, dovranno tornare a stipulare accordi individuali con i singoli lavoratori, che è esattamente la normativa precedente allo stato di emergenza, cioè lo smart working, lavoro a distanza, lavoro agile, si poteva fare anche prima, però erano accordi individuali con i singoli lavoratori, tra azienda e lavoratore. E qui vorremmo capire, insomma, ad ora, stante le cifre, sono 4 milioni di lavoratori che continuano a lavorare da remoto, un numero che è la metà rispetto a quello stimato durante il lockdown, che era di 8 milioni di lavoratori. Il numero è comunque altissimo, perché se si confronta a quante erano le persone prima della pandemia in lavoro agile, erano solo 570.000 lavoratori, quindi siamo a 9 volte quasi il numero precedente, e con tutto un insieme di implicazioni anche sul tessuto urbano e sull'economia del tessuto urbano. Io non sto dicendo, prima di iniziare con le polemiche di alcuni ascoltatori, che non si debba ripensare, che non ci possa essere anche, ma non si può adottare un modello così drastico in cui ancora vediamo grandi gruppi avere tra il 75 e l'85% dei lavoratori a distanza, così in maniera politica, come se fosse un nuovo modo e basta. Bisogna ragionare su tutte le implicazioni che vanno dall'impatto economico nei settori coinvolti, esercizi commerciali di qualunque tipo, l'impatto sulle municipalizzate, quindi sui mezzi di trasporto, l'impatto indiretto anche su un insieme di attività. Non è un mistero che molti legano il crollo che vi è stato dei dati sulla vendita di abbigliamento, mi riferisco al mese di luglio, l'abbiamo commentato ieri, il dato peggiore arriva proprio dall'abbigliamento e calzature, con crolli quasi vicini al 30%, all'esistenza non solo dello smart working, ma anche alla fine di tutto insieme, o alla sospensione di tutto insieme di eventi pubblici, per cui una minor così tendenza ad andare ad acquistare capi d'abbigliamento. Ma ripeto, al di là delle implicazioni complessive, per cui io invito tutti a non essere così semplicistici nel dire bene, adesso c'è il lavoro a distanza, continuiamo così, cerchiamo di capire che cosa succede nei grandi gruppi, quali sono le indicazioni che potrebbero arrivare. Oggi su Sole 24 Ore ci sono le 10 risposte alle domande sul futuro dello smart working. ne parleremo appunto in apertura. Confermo chi me lo chiede che invece il decreto legge firmato nella notte dal presidente Mattarella e quindi oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni 14, come disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL. Quindi, insomma, se hai un figlio che ha meno di 14 anni ed è positivo, cioè in quarantena perché è positivo al Covid, tu puoi fare o tutto, insomma, o una parte del lavoro a distanza, e lì non è a discrezione dell'azienda, però. Ne parleremo, dicevo, in apertura. Per quello che riguarda gli altri temi, oltre ai mercati che oggi recuperano tutto quello che hanno perso ieri, sostanzialmente più 2% Milano, più 1,60 Parigi, più 2,11 Francoforte, Londra più 1,40, il Dow Jones sta dando una mano più 1,70%, e i titoli STMicroelectronics, che ieri era in flessione, più 6,50, Diasorin più 5,70, Inuit più 5,50, Snam più 4,5, Unicredit più 2,90, come Buzzi Unici e Marecordati più 2,80, Exor più 2,60, Nexi più 2,30 come Atlantia, e Italgas ed Enel e Unipol negativa a Leonardo dell'1,5%, euro su dollaro a quota 1,18. Come dire, insomma, i timori delle borse di ieri, almeno oggi, sono stati totalmente scomparsi. No, parleremo invece di un'operazione di mercato che può sembrare di nicchia, il lusso estremo, in realtà vale 16 miliardi di dollari, 13 miliardi e mezzo di euro, e quindi l'operazione che avrebbe visto il colosso del lusso francese Louis Vuitton Moët&Cie comprare il gruppo famosissimo statunitense Tiffany, di gioielli ma non solo, per un valore di 13 miliardi. L'annuncio era arrivato lo scorso novembre, adesso invece la società ha dichiarato che ha chiesto, che il Ministero degli Esteri francese le ha chiesto di rimandare l'acquisizione di Tiffany, vista la minaccia degli Stati Uniti di imporre dazi su un insieme di prodotti francesi ed europei. Quindi la vicenda si colora, diciamo così, di un elemento anche di politica estera, comunque di relazioni internazionali, perché viene citato proprio la minaccia degli Stati Uniti. E quindi anche Tiffany ha chiesto a Louis Vuitton Moët&Cie di posticipare l'acquisto al 2021. Fatto sta che in questo momento poi il titolo sta crollando in borsa, ho visto un calo intorno al 10%, che è arrivato anche a essere superiore. 10,7% all'avvio delle contrattazioni a Wall Street, adesso non ho l'ultimo dato aggiornato. Infine chiuderemo sulla scuola, per modo di dire, perché la scuola resterà il tema di tutta la settimana. Il Radio Day, avete sentito il promo poco fa che faremo lunedì, con collegamenti in vari istituti scolastici o plessi scolastici, come si dice in gergo. Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi una conferenza stampa con il Presidente del Consiglio e i ministri Azzolina, De Micheli e Speranza. Ascolteremo alcuni passaggi e soprattutto cerchiamo di capire il punto sulla riapertura scolastica. Anche qui c'è un articolo del Sole 24 Ore oggi sul tema, ma soprattutto si cerca di capire, c'è un rapporto dell'OCSE che si chiama Education at a Glance, vuol dire lo stato dell'arte del mondo dell'educazione in uno sguardo, così, in un flash. E tra l'altro emerge come l'Italia non sia il paese con una dimensione di classi, le famose classi pollaio. La media è di 19 allievi nella scuola primaria pubblica, chiaro che parliamo della scuola primaria pubblica, contro i 21 allievi nei paesi OCSE. Anche alle medie, da noi ci sono una media di 21 studenti per classe contro una media di 23. Quindi il problema del sovraffollamento, da questo rapporto, sembra più dipendere dagli spazi piccoli che dal numero di studenti presenti. Adesso non voglio fare come il pennello grande, un grande pennello, però se prendiamo il numero di studenti per classe non c'è un dato, anzi un dato sotto la media OCSE. Se poi è chiaro che questi studenti, 21, li metti in una classe che ne dovrebbe tenere 15, il sovraffollamento ce l'hai, ma non è il numero di classi per insegnanti ad essere alto come numero di studenti, casomai sugli spazi essere pochi. E ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo subito con le altre notizie in breve. Dunque, interessante il rapporto del Fondo Monetario Internazionale di oggi. Vabbè, al di là del fatto che dice che la crisi legata alla pandemia è lungi dall'essere finita, la ripresa resta fragile e incerta e occorre assicurarsi per assicurare che questa ripresa continui è essenziale che gli aiuti concessi non siano ritirati in modo prematuro. E poi indica una piena ripresa improbabile senza una permanente soluzione, quindi la disponibilità di un vaccino o di cure di successo per il Covid. Aggiunge un'analisi anche di carattere storico, cioè fa notare che nella sua durezza, quello che ormai viene chiamato il grande lockdown del 2020, non so se i nostri figli o i nipoti poi studieranno così come noi studiavamo la grande depressione del 29, il grande lockdown del 2020. Però il Fondo Monetario fa dei paralleli con la grande depressione e nota che la crisi di oggi è come nessun'altra. Io aggiungo anche perché la grande depressione era nata da un motivo di sovrapproduzione, adesso potremmo stare qua delle ore a parlarne, c'è cioè un motivo economico, come la crisi del 2008 nacque da un motivo finanziario. Qui la crisi economica nasce da un motivo virologico, non c'entra un cattivo funzionamento del motore economico, distorsioni nel mercato finanziario oppure sovrapproduzione che poi esplode. Qui l'economia stava girando neanche tanto surriscaldata, semplicemente è arrivato un virus dalla Cina. Ma dice il Fondo Monetario, attenzione, perché è sbagliato fare dei paragoni eccessivi con il 2029, con il 1929, perché la severità e la velocità del calo nella produzione economica, nell'occupazione e nei consumi durante il grande lockdown è stata maggiore di quella degli inizi della Grande Depressione. Fanno un esempio i due economisti: in un solo mese, da marzo a aprile, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è quasi triplicato, cioè è passato, lo ricordiamo anche noi, da un 5% a un 14,7%, un livello non raggiunto durante la Grande Depressione per quasi 2 anni, cioè la Grande Depressione ci mise 2 anni a triplicare la disoccupazione, cosa che invece il lockdown ci ha messo un mese. Poi uno potrebbe obiettare, magari però la ripresa sarà molto molto più veloce rispetto alla Grande Depressione, anche perché sappiamo che poi il livello economico pre-Grande Depressione gli Stati Uniti lo raggiunsero nel 1943 grazie agli investimenti nell'industria militare, inutile girarci attorno, per tornare a quei livelli del PIL. Quindi probabilmente io mi auguro che poi anche il recupero sarà di gran lunga più veloce rispetto a quello della Grande Depressione, ma stando ai fatti al momento lo shock economico del grande lockdown è stato di gran lunga superiore allo shock economico del primo anno, dei primi anni dopo il 29. Veniamo ai temi più di cronaca. Volano gli stracci tra Europa e Gran Bretagna, perché in maniera unanime l'Europa dice che è pacta sunt servanda e quindi gli accordi fatti a novembre dell'anno scorso vanno rispettati, e lo ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, lo ha detto anche il Vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic, che ha espresso in una telefonata con il Ministro britannico Michael Gove forti preoccupazioni per l'atteggiamento britannico, che vorrebbe modificare alcuni degli accordi presi. E ancora si chiama Withdrawal Act, quindi gli accordi sull'uscita della Gran Bretagna. Il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha detto che l'accordo di recesso raggiunto e ratificato da entrambe le parti deve essere applicato in pieno. La violazione della legge internazionale non è accettabile e non crea la fiducia necessaria. Però il governo Tory oggi ha depositato in Parlamento un progetto di legge che si propone appunto di tutelare il mercato interno a costo di rivedere alcuni degli accordi di recesso già raggiunti con Bruxelles, in particolare il protocollo sottoscritto a garanzia del confine aperto tra Irlanda e Irlanda del Nord. Ora poi uno può pensare come vuole sulla Brexit, vedremo quanto bene farà la Brexit alla Gran Bretagna, però una cosa è chiara: se tu firmi un accordo a fine del 2019 per permettere appunto un ritiro ordinato della Gran Bretagna, è un po' difficile accettare che tu in maniera unilaterale modifichi accordi presi, per carità, insomma. Però non si può dire che la Gran Bretagna si stia comportando in maniera né coerente, e a mio avviso neanche corretta in questo caso. Andiamo all'Italia. Bene, anche oggi l'asta dei bot a un anno. Il rendimento, cioè per prestare soldi all'Italia per un anno, si accetta, gli investitori accettano di perderci a livello appunto di valore nominale, lo 0,22%. Infatti il rendimento del bot è meno 0,22%, quindi lo porti a scadenza il 14 settembre 2021 e ottieni il meno 0,22%. La domanda è in forte crescita, a dimostrazione di quello che dicevamo ieri, che c'è molta liquidità, a 12 miliardi e 900 milioni di euro, una volta e 8 rispetto all'offerta, e anche in aumento rispetto al precedente bot a un anno. Oggi la Banca d'Italia, l'ABI, se non ricordo male, ha diffuso i dati, mi ricorreggo, è una nota della Task Force di cui fanno parte il Ministero dell'Economia, delle Finanze, Sviluppo Economico, Banca d'Italia, ABI, Mediocredito Centrale, SACE 1. Allora, la moratoria sui mutui, sui prestiti, ha toccato i 301 miliardi di euro per domande pari a 2 milioni e 700 mila. Le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese, quindi quelle da 30.000 fino a 5 milioni se non ricordo male, hanno toccato quota 77,6 miliardi e poi attraverso la Garanzia Italia, quelle per le imprese grandi di SACE, sono state concesse garanzie per altri 13 miliardi su 492 richieste ricevute. Fanno notare poi che le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 43% del totale. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, allora ci sono, il Cura Italia ha riguardato 1.300.000 imprese per prestiti e linee di credito per oltre 158 miliardi, mentre ci sono 51.000 adesioni alla moratoria da parte delle piccole e medie imprese. Le domande delle famiglie hanno riguardato prestiti per circa 95 miliardi. E i prestiti complessivi del mondo bancario, al di là di quelli garantiti dallo Stato, hanno fatto più 2,8% a luglio. La buona notizia è anche che sono diminuite moltissimo le sofferenze bancarie nette, a luglio meno 15%. Questo grazie chiaramente a operazioni di cartolarizzazione, cioè impacchetti il debito che hai, il credito non più esigibile, non più sano che hai, lo rivendi a qualcun altro. Un'ultima notizia che riguarda l'Alitalia. Allora, in questi giorni ha chiarito il ministro delle Infrastrutture Paolo De Micheli, è stato inviato ai ministri competenti il decreto interministeriale di costituzione della NewCo, la nuova società. Così verrà salvaguardata l'occupazione, lo Stato non sarà a tempo illimitato dentro la compagnia aerea. Il governo non intende immaginare una compagnia aerea che in un tempo illimitato continuerà a essere di esclusiva proprietà dello Stato, ma riteniamo che una volta realizzata la fase iniziale del piano industriale ci saranno le condizioni per poter accedere sul mercato delle compagnie aeree alla possibilità di costruire alleanze, sinergie, oltre che eventuali compartecipazioni. La NewCo si rilancerà se, e noi siamo certi che questo accadrà, sarà nelle condizioni di produrre reddito. In parallelo proseguiranno ovviamente tutte le interlocuzioni con i partner industriali, con i partner commerciali, per accompagnare efficacemente lo sviluppo e l'espansione in questa prima fase di avvio della nuova società, che ovviamente si caratterizza per le incertezze che ho provato a descrivere con numeri e scenari che caratterizzano il mercato europeo e il mercato internazionale. Don't really know where to go. affrontiamo adesso il tema, immagino non per l'ultima volta, del lavoro a distanza, dello smart working, come si chiama in un gergo anche impreciso, il lavoro agile, come si chiama in altro termine. Mi scrive giustamente un ascoltatore, oddio, giustamente insulta un po', ma dice: io faccio il saldatore, cosa vuol dire che mi porto il lavoro a casa se ho i figli in quarantena? Allora, adesso chiariamo anche quello, però il lavoratore dipendente, da quello che ho capito io, la norma è a tutela del lavoratore dipendente, che non è a discrezione dell'azienda se posso o no stare in lavoro agile, ma in automatico se il figlio è, convive con lui e ha meno di 14 anni è in lavoro agile. È ovvio che ci sono tutto un insieme di lavori in cui il lavoro a distanza non è neanche ipotizzabile, ma non mi riferisco solo al chirurgo o al saldatore, potremmo fare un elenco esteso, l'autista dell'autobus può fare un lavoro a distanza, no, finché non fanno il Google Bus la vedo molto dura, e via così. Però ciò non toglie che c'è ancora una fetta molto importante di 4 milioni di lavoratori che continuano a lavorare da remoto, e oggi il Sole 24 Ore fa delle bellissime pagine, ripeto, non lo dico per amore di scuderia, ma perché sono molto esaustive, su quelle che sono le iniziative. A me quello che spaventa un po', se posso permettere di usare questo termine, è che le richieste non stanno arrivando solo o soprattutto dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali. Ci può anche, con le incertezze ancora sulla riapertura delle scuole, ci può anche essere. No, ma stanno arrivando dai grandi gruppi stessi. E cioè l'Enel manterrà dove possibile il regime di smart working. Attualmente la società ha 15.000 persone in lavoro a distanza. L'Eni sta proseguendo un graduale rientro in sede, però si è passati da 21.000 lavoratori a distanza, di cui 15.000 solo in Italia. Però faccio notare che prima delle ferie estive solo il 15% dei lavoratori era presente. Vodafone, è chiaro che poi ogni azienda è diversa, più fai servizi, più hai anche, è innegabile, facilità, grazie a un piano di remotizzazione degli 8 call center su 6.000 dipendenti, hanno lavorato la totalità in smart working. Da settembre è stato avviato un piano graduale di rientro su base volontaria per un tempo non superiore al 20% dell'orario lavorativo. Pirelli, cito i casi appunto presi dall'inchiesta del Sole 24 Ore, il tasso di ritorno al lavoro da remoto, il tasso di lavoro da remoto è pari al 75%, prima del lockdown era il 10%. TIM, durante l'emergenza 36.000 dipendenti in lavoro remoto su 43.000, e sarà così fino a ottobre, poi i dipendenti potranno scegliere se rientrare o continuare da casa. La società sta comunque pensando di ridurre gli spazi occupati del 30%. Allora, intanto ringrazio Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Buonasera Giorgio. Buonasera a voi. E complimenti a te e ai colleghi del Sole 24 Ore per le pagine, devo dire, molto esaustive, le 10 risposte alle domande sul futuro dello smart working. Anche perché ne parliamo adesso, perché il 15 ottobre, a meno che non capiti qualcosa, finisce lo stato di emergenza e quindi, diciamo, l'automatismo, e se non cambia qualcosa ci tornerà alle norme vigenti precedentemente, cioè che ogni caso di lavoro a distanza deve essere concordato tra il singolo lavoratore e l'azienda. Ci sono quindi tanti temi che voi affrontate, sentiamo qual è l'opinione, tra l'altro visto che in questi giorni si aprono i tavoli sullo smart working, di Florindo Oliverio, segretario nazionale della FP Funzione Pubblica della CGIL, che parteciperà a questi incontri, raggiunto dalla nostra Anna Marino. L'esperienza è stata positiva per il fatto che praticamente le amministrazioni hanno fatto i conti con una realtà che può produrre sicuramente un incremento, un miglioramento della qualità dei servizi per un verso, perché può rendere anche servizi più vicini e di prossimità ai cittadini, alle utenze, ma dall'altro lato può produrre anche dei risparmi. Ha mostrato che un altro tipo di spending review, per esempio, è possibile nelle amministrazioni per evitare i tagli lineari che abbiamo conosciuto negli anni precedenti. Dall'altro lato però ha messo in evidenza anche che non tutto è smartabile, come si dice adesso, non tutto cioè è possibile fare in modalità agile. Non tutte le attività sono al 100% non smartabili, così come non tutte le attività sono al 100% smartabili. Le attività non sono tutte mai interamente lavorabili da remoto e tutte mai interamente lavorabili esclusivamente in presenza. Quindi bisogna fare un'analisi dei processi lavorativi che non sempre nelle amministrazioni pubbliche è stata fatta per il passato. Voi avete un tavolo in cui discuterete di che cosa? Noi discutiamo intanto in questo tavolo con la ministra Dadone di come passiamo dalla fase della legge del 2017, la legge 81, che appunto prevedeva una possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e quindi lo risolveva esclusivamente in un rapporto duale tra il lavoratore che aveva necessità di meglio conciliare i tempi della famiglia con il suo datore di lavoro. E cosa che però non ha prodotto i risultati sperati. Noi dobbiamo ricondurre alla contrattazione collettiva anche la disciplina del lavoro agile, perché al lavoro agile vanno riconosciuti trattamenti economici, così come la legge stabiliva già nel 2017, non inferiore ai colleghi che lavorano in presenza. Bisogna garantire anche nuovi diritti che ovviamente non erano concepibili quando il lavoro era tutto quanto circoscritto in un perimetro dato, per esempio il diritto alla disconnessione, il diritto anche per esempio a lavorare in sicurezza al di fuori del normale ufficio e anche risultati. E questo è l'altro tema. La contrattazione collettiva deve ritornare a occuparsi di organizzazione del lavoro, perché attraverso la contrattazione è possibile definire gli obiettivi. Il lavoro agile per definizione non è legato a un tempo di lavoro, ma allora bisogna definire chiaramente gli obiettivi. Allora, Giorgio Pogliotti, a parte lo smartabile, che voglio dire, se gli inglesismi invadono anche la CGIL è veramente finita, ma insomma mi sembra di capire due cose, ti chiedo solo la pazienza di rispondermi dopo il metodo e la pubblicità, che dal punto di vista sindacale si punta a far rientrare anche il lavoro agile dentro la contrattazione aziendale e non come contrattazione individuale del dipendente, e che si ribadisca il fatto che non è un lavoro per orario ma per obiettivi, e qui si aprono vari scenari. Segnalo che molti ascoltatori mi dicono che nella pubblica amministrazione invece questo sta creando sull'efficienza della pubblica amministrazione numerosi problemi. Ti chiederò di illustrare appunto che cosa avete capito anche voi con le risposte che avete dato fra due minuti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. Focus Economia. Allora, Giorgio Pogliotti, nell'ordine, quello che voi, di cui avete scritto riguarda, vedo moltissimi messaggi sul lavoro a distanza, il solo settore privato dal 15 ottobre in poi o anche il settore pubblico, e poi che cosa potrebbe capitare, cioè se il governo non va a prorogare lo stato di emergenza dal 15 ottobre. Giorgio. Iniziamo dal settore pubblico di cui tu stai appunto giustamente parlando prima. Ora, qui il disegno del ministro è fino al 31 dicembre... Il legislatore ha previsto l'introduzione dello smart working per il 50% dei dipendenti pubblici che svolgono attività che sono considerate appunto eseguibili anche a distanza. Poi il tavolo con i sindacati è in svolgimento, perché entro il 31 gennaio del prossimo anno in ogni amministrazione si dovrà elaborare un piano organizzativo del lavoro agile per prevedere lo smart working per almeno il 60% del personale. Ora, il tema quindi è, come vedete, l'impostazione qui del governo è quella di si stabiliscono, diciamo, dei tetti in partenza, considerando, come dire, il lavoro agile di per sé come uno strumento in grado di garantire efficienza e conciliare appunto la vita privata dei lavoratori. Normalmente, diciamo, come dire, l'individuazione dei tetti dovrebbe invece essere la risultante di un'analisi che viene fatta. Sì, sono d'accordo. Efficienza, eccetera. E si potrebbe, per esempio, scoprire che in determinate amministrazioni, a causa di sia carenze formative che di dotazioni informatiche, eccetera, non si riesce a raggiungere neanche lontanamente questi tetti. Ora, come dicevi giustamente te prima, io, anche noi siamo inondati da email di geometri, architetti, avvocati che si lamentano di come durante il Covid, ma anche adesso. Ma guarda, me ne stanno arrivando a decine. Lavori nei tribunali, gli assessorati all'edilizia che devono dare permessi, sovrintendenze, si è tutto rallentato. Allora, forse sì, già non venivamo da una situazione, diciamo, svizzera. Esatto, bravissimo. Forse prima di dare queste cifre così elevate, sarebbe il caso di, come dire, sottoporre, stiamo parlando del pubblico, sottoporre, diciamo, tutto, diciamo, il settore pubblico ad una, amministrazione per amministrazione, ad un'analisi effettivamente sul grado di efficienza e sulla capacità poi di garantire in prospettiva, appunto, l'efficienza dei servizi, perché qui si rischia in realtà in nome, appunto, di forse un approccio un po' ideologico, se vogliamo, si rischia di rallentare enormemente permessi, processi, con quindi un danno enorme poi per la collettività. A maggior ragione, quindi, se vogliamo ripartire con investimenti, appalti sotto i 150.000 euro, ecobonus. Sì, certo. Forse cambiare impostazione. Sì, ecco, io non capisco onestamente il ministro Catalfo da questo punto di vista, che mi è sempre sembrata troppo così prudente o eccessivamente a favore del lavoro a distanza nella pubblica amministrazione, perché mantenere il 100%, cioè il totale al 31 dicembre, il 50%, scusami, e ragionare di un 60% a inizio gennaio, magari, io sono d'accordo con te, è più noioso, ma devi iniziare a dire assessorato per assessorato, ministero per ministero e via così, ufficio pubblico per ufficio pubblico, non lo so, l'anagrafe rispetto al catasto, rispetto all'archivio, non è la stessa cosa. Molti ascoltatori mi segnalano una difficoltà estrema nell'avere appuntamenti fisici a questo punto, incontri fisici. Veniamo al privato, e quindi il pubblico, a mio avviso, sbagliando, sono d'accordo con te, questi processi non si fanno calare dall'alto, si va a vedere le esigenze operative, le esigenze, diciamo, si direbbe produttive, e poi dici, bene, questo è un ufficio o un dipartimento che può lavorare anche al 70% a distanza, perché riesce a svolgere, anche perché è informatizzato, digitalizzato, cosa che sulla pubblica amministrazione è tutta macchia di leopardo. Bene, l'altro non può perché c'è bisogno, è impossibile lavorare in questo modo, e lo smart o il lavoro a distanza sarà solo del 30% o del 20%. Veniamo al privato. Che cosa capita? Che poi la domanda di fondo a cui voi rispondete in 10 punti. Che cosa capita dopo il 15 ottobre, ammesso e non concesso che, appunto, non venga rinnovato lo stato di emergenza? Allora, fino allo stato di emergenza, quindi fino alla vigenza di questa situazione di emergenza emergenziale, prosegue, quindi fino al 15 ottobre al momento, prosegue un meccanismo, se vogliamo, semplificato, in base al quale è il datore di lavoro che unilateralmente ci mette in smart working. Quindi cosa succede? Che se non verrà prorogato il regime dello stato d'emergenza, dal 16 ottobre si tornerà alla legge 81 del 2017. Che cosa prevedeva? Prevedeva gli accordi individuali, cioè il datore di lavoro deve fare gli accordi individuali con ciascun lavoratore, certo. E quindi accordi scritti rispetto, appunto, all'utilizzo, al ricorso allo smart work, al lavoro agile. E la legge era una legge, diciamo, che semplicemente stabiliva dei principi di base, diciamo, appunto, dello smart working, il lavoro agile è definito come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, quindi parliamo dell'universo del mondo del lavoro subordinato, attenzione, con alcuni diritti di base, come per esempio il diritto alla disconnessione, la salute, la sicurezza, eccetera, rimandando poi alla contrattazione collettiva, diciamo, l'applicazione concreta. Questa era l'impostazione, se vogliamo, della legge. Adesso il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che intende rimettere mano a questa legge e ha convocato per il 24 settembre la mattina i sindacati e il pomeriggio le aziende. Quello, diciamo, che trapela, e quello che, insomma, abbiamo un po' sentendo anche al ministero, i tecnici che ci stanno lavorando, è che lei vuole dare molto più spazio alla contrattazione collettiva. Allora, qui si tratta di capire poi che impostazione ci sarà, perché già adesso ci sono contratti nazionali, il contratto dei bancari, il contratto delle telecomunicazioni, che già prevedono alcune cose, no? Però molto viene demandato alla contrattazione decentrata in azienda. Bisognerà vedere che impostazione ci sarà, se si darà molto spazio ai contratti nazionali in maniera anche invasiva, si rischia un po' di ingessare, diciamo, certo, no? Lo strumento, che è molto importante, mentre appunto la contrattazione decentrata fatta a livello aziendale sicuramente garantisce l'adattamento. Sì, io lo dico, è la mia opinione personale, ma su un tema così delicato e a maggior ragione citando sempre Anna Karenina, così infelice a modo suo come le famiglie infelici, è ancora più importante vedere caso per caso, perché ci sono aziende che, dove lo smart working è praticamente un lavoro a distanza bassissimo, perché quando tu hai manifattura e quant'altro riesci al massimo ad avere la parte amministrativa, se ti va bene, in lavoro a distanza. Ci sono aziende di servizi in cui è sicuramente più facile mantenere il lavoro a distanza in quota più alta. Andare anche qui a ingessare, come si può fare sul pubblico impiego, il 60% senza guardare caso su caso, a me sembra sta cosa un pochino così forzata e forzosa anche dall'alto. Fermo restando, dico a chi mi scrive, lei si preoccupa solo dei bar, dei parcheggiatori, dei ristoranti, aggiungo anche dei biglietti e delle municipalizzate, dei trasporti e anche dei negozi di frutta e abbigliamento che ruotano attorno ai posti di lavoro. Guardi, intanto non ci sarebbe niente di male nel preoccuparsi anche di tutta l'economia che ruota attorno ai luoghi di lavoro, perché sono, è economia anche quella, sono persone e lavoratori, aggiungo anche i tassisti e quant'altro. Però io mi preoccupo anche del singolo lavoratore, se vuole metterla così, in lavoro a distanza. Abbiamo fatto notare che i luoghi di lavoro in questi 30 anni, 40 anni, 50 anni non sono quelli di Charlie Chaplin, no, in tempi moderni. C'è stata tutta, anche grazie ai sindacati, ai rappresentanti del lavoro, un'attenzione molto forte per la qualità del lavoratore nel luogo di lavoro, a partire, diciamo, dal tempo che passa al terminale, gli spazi di lavoro, l'ergonomia. Abbiamo fatto decine di convegni su questo. Ora, a me sembra, e ribadisco l'esempio un po' forzato che ho fatto, che la differenza tra l'amministratore delegato e l'ufficio dell'amministratore delegato e quello della sua segretaria nel posto di lavoro come qualità dell'ambiente sia molto più bassa, se voglio usare questo esempio forte, rispetto alla differenza che c'è tra la casa dell'amministratore delegato e la casa della segretaria. Cosa voglio dire? Attenzione, perché a prendere in maniera così tutto bello il lavoro a distanza, a mio avviso si possono ricreare disuguaglianze sociali ancora più forti che il posto di lavoro aveva cercato di ridurre. Non dico che l'avesse ridotto, non sto dicendo che l'ufficio dell'amministratore delegato del dirigente sia uguale a quello della segretaria o dell'impiegato, ma almeno lo spazio, i servizi, la mensa, cioè un insieme di cose erano più simili. Comunque, cerchiamo di capire adesso, Giorgio, su questo, ed è l'ultima domanda che ho per te, quale, diciamo, implicazioni questo potrebbe avere, perché io non capisco come si possa fare di tutto un erbo un fascio tra un'azienda manifatturiera e un'azienda di servizi. No, ma certamente il mondo del lavoro è molto variegato, quindi nel manifatturiero appunto sono più gli impiegati, normalmente gli amministrativi che sono impiegati, che sono appunto che possono svolgere il lavoro agile, e nelle aziende di servizi in tal commerciale. Però attenzione, perché finora si è, più che il lavoro agile, si è semplicemente fatto lavoro da casa, e il lavoro agile è ben altra cosa. Hai ragione. Se ci andiamo a leggere la legge originaria dell'81, prevedeva lavoro da remoto con alternanza di lavoro in presenza, cioè in azienda, e appunto da remoto. Da remoto può essere anche in un bar, può anche essere con un wifi, Starbucks per esempio, no? Sì, cioè, sì. Chiunque abbia viaggiato ha visto che può essere anche dalla casa in vacanza, come è avvenuto in molti casi. Esatto, o locali di coworking, sì, per esempio. Quindi in realtà si potrebbe sviluppare tutto un indotto anche grazie al lavoro da remoto. Quello invece in cui abbiamo assistito in questi mesi è semplicemente la trasposizione del lavoro che prima si faceva in ufficio a casa, e che non è il lavoro agile, è altro, è stata una gestione nell'emergenza. Sì, sono d'accordo con te. Ma non è, appunto, è un trasferire la scrivania, diciamo, a casa, con lo stesso orario e, come dicono i sindacati, non per obiettivi ma per orario. Io lo vedo anche, insomma, modestamente nel nostro caso specifico. Vedo moltissimi messaggi che lamentano dal comune di Voghera, al comune di Roma, problemi col catasto, tutto si era rallentato. Qui torniamo al tema del pubblico impiego. Io penso che sia un errore totale l'impostazione che si ha in questo momento sul pubblico impiego. Però ecco, per concludere, Giorgio, il tema, diciamo, del trattativo governo, sindacati, insomma, è anche il tema di che ambiente di lavoro diventa quello in cui il lavoratore è in lavoro agile? Perché sentivamo prima appunto la CGIL dire, beh, andiamo anche per obiettivi. Io aggiungo anche forse una riflessione sul luogo in cui lavori andrebbe fatta. Certo, ma infatti perché nei grandi gruppi adesso si sta parlando di comunque lasciare una fetta grande, circa il 30% comunque dei lavoratori in lavoro agile? Perché tutti gli ambienti aziendali vanno ripensati per garantire il distanziamento previsto dalle norme di sicurezza, vanno ripensati i layout aziendali, gli spazi, e non si può pensare di tornare a così come era la situazione ante Covid. E quindi appunto Oddio, allora un conto è apprendere lezioni nuove da una situazione di emergenza, nulla in contrario. Però magari, Giorgio, se dovessimo superare l'autunno e l'inverno o con un vaccino o con cure, diciamo, cliniche molto molto efficaci, magari uno può anche immaginare che aprile sto grandissimo casino del Covid forse è rientrato, no? Cioè pur negando che alcune cose, per carità, uno può dire, vabbè, vista l'esperienza, forse un 20%, un 15%, non lo so, lo tengo agile. No, le aziende dal 16 ottobre quello che stanno mettendo in cantiere è questo, cioè loro sanno che per i prossimi mesi i layout aziendali vanno rivisti, perché non sono in grado di accogliere al 100% il lavoro in presenza, quindi si stanno organizzando lasciando, diciamo, magari ecco, un 30% di lavoratori a rotazione in lavoro da remoto. Questo, diciamo, sentendo diversi consulenti aziendali, questo sembra essere un po' questa la scelta che fanno molte aziende. E quindi, diciamo, il lavoro in presenza comunque non può essere garantito a tutto, diciamo, l'organico, proprio per ragioni di sicurezza. Questo poi però, ripeto, avrà un impatto anche, superata la gestione, diciamo, emergenziale, avrà un impatto, secondo me, anche, ma lo dicono tanti studiosi, diciamo, di questo fenomeno, avrà un impatto sull'organizzazione del lavoro anche una volta esaurita la fase emergenziale. Come elemento che resterà strutturalmente in un ripensamento dell'organizzazione aziendale. Certo, questo non lo metto in dubbio, perché poi è ovvio che se tu vedi che nella tua azienda, chiaramente non sei una manifattura, ma riesce a organizzare con maggior soddisfazione i dipendenti, ma senza danneggiare il prodotto, l'efficienza e la produttività, è ovvio che non devi buttare via tutto, qualcosa ti può anche restare, tra virgolette, in senso positivo di questa tragedia dello smart working. Vedo molti messaggi, lapsus freudiano, tragedia del Covid. Molti messaggi che riguardano lo straordinario può essere retribuito, c'è il diritto al di là della parte del figlio in quarantena. Sono compatibili cassa integrazione e smart working. Io adesso il tempo l'ho esaurito, però siccome Giorgio Pogliotti assieme a Claudio Tucci e poi anche alla collega Cristina Casadei hanno fatto due pagine bellissime oggi sul Sole, qui sì faccio il lavoro di scuderia, andate a leggervi le risposte sul Sole 24 ore, perché non posso sintetizzare due pagine in pochi minuti. Mi interessava appunto il quadro insieme su cui molto chiaramente si è espresso Giorgio Pogliotti, che ringrazio. E adesso cambiamo tema, nel senso che andiamo alla borsa, ma più che alla borsa al caso Tiffany, che è un caso, ripeto, più di forse, quasi più di politica estera, di politica economica, che solo di valutazione finanziaria. Allora, di Tiffany parleremo chiaramente dopo il GR24, vi do la chiusura di borsa, intanto più 2% Milano, più 1,40 Parigi, più 2 Francoforte, più 1,40 Londra, più 1,90 il Dow Jones, in recupero tutti i titoli che avevano ceduto ieri, Steamaker Electronics più 7%, Inuit più 5,70, Diassorin più 5,5, Snam più 3,40, Unicredit più 3,20, Recordati più 2,80, Buzzi più 2,60 come Nexi, Enel più 2,30 come Italgas, ed Exor, mi fermo con chi guadagna più del 2%, Unipol 2,20, A2A 2,20, Generali più 2. Negativa Leonardo, meno 1,46%, ancora migliore Prismi più 20%, Isagro più 10%, fronte opposto Monriff meno 9%, TripAdvisor meno 5,60%, WebSolute meno 5%, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. dopo GR24 e prima di parlare della scuola, il caso Tiffany, un'operazione che al di là del colore, colazione da Tiffany e quant'altro, vale 13 o salta, ma valeva 13 miliardi di euro. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Focus Economia. Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream. 18 e 8 minuti non è esattamente la base che ha i ritmi di Focus Economia di solito, ma l'abbiamo introdotta perché, come anticipavo prima, della questa insomma è colazione da Tiffany, Audrey Hepburn. Perché è successo qualcosa che può sembrare solo di carattere economico-finanziario in senso stretto, cioè il colosso del lusso francese Louis Vuitton Moanessi, dopo aver annunciato a novembre dell'anno scorso, se non ricordo male, che avrebbe comprato Tiffany per 16 miliardi di dollari, circa 13 miliardi e mezzo di euro, ha annunciato, con conseguente crollo del titolo Tiffany, che è arrivato a perdere il 10%, adesso perde l'8,30%, ha detto due cose. Ha dichiarato che il Ministero degli Esteri francese ha chiesto a un gruppo guidato da Arnaud di rimandare l'acquisizione di Tiffany oltre il 6 gennaio 2021, vista la minaccia degli Stati Uniti di imporre dazi su una serie di prodotti francesi ed europei. Ecco perché entra in gioco, a mio avviso, una variabile anche di politica estera. Anche Tiffany ha chiesto a Louis Vuitton Moanessi di posticipare l'acquisto al 2021. La vicenda nasce, ce ne siamo occupati, quando Trump ha annunciato aveva minacciato di aumentare le tasse sulle importazioni di merci francesi e anche europee a causa dei sussidi dell'Unione Europea Airbus, che è la principale rivale di Boeing. C'è un'altra causa invece speculare intentata da Airbus nei confronti di Boeing, sempre con l'accusa di aiuti di Stato. Giulia Crivelli, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, sì, è una storia, hai ragione, ha dei risvolti geopolitici, ma è abbastanza difficile da decifrare. Sicuramente appartiene all'onda lunga della pandemia, perché anche benché il lusso, diciamo sempre, è resiliente a qualsiasi cosa, il primo semestre di LVMH, che è il più grande gruppo del lusso al mondo, hanno perso il 28% di ricavi, 38% solo nel secondo trimestre e il 67% di utili, che restano sempre di oltre 6 miliardi, però insomma è un bel calo. Quindi da una parte il periodo difficile che tutti stanno vivendo, specie se insomma poi quotati, quindi devono render conto ovviamente agli azionisti. Il fattore geopolitico, come dicevi tu, e poi questo tentativo che comunque LVMH quasi si fosse un po' pentita di quella mega offerta che sarebbe stato la più grande acquisizione della storia del lusso, forse si fosse quasi pentita del prezzo che si era stato fissato. Il grande Bernard Arnault, fondatore di LVMH, aveva già tentato insomma di rivedere questo prezzo, c'era già stato un rinvio dei termini della chiusura del contratto, quindi effettivamente è una storia molto complicata. Però come notavi tu, poi LVMH a Parigi oggi ha chiuso invariata, quindi forse il mercato tutto sommato questa mossa l'ha apprezzata. Sì, faccio notare che LVMH, Louis Vuitton Moanessi, ha 163.000 dipendenti in tutto il mondo e ha fatturato l'anno scorso quasi 54 miliardi di euro. Tiffany, che può sembrare piccola perché uno si immagina la gioielleria di Tiffany, no, sulla Quinta, no, sono 14.200 dipendenti, di cui oltre 5.000 artigiani, oltre 300 boutique in tutto il mondo, con un fatturato l'anno scorso di 4 miliardi e mezzo di dollari. È chiaro che la capitalizzazione è enormemente differente, 203 miliardi per Louis Vuitton Moanessi contro i 13 di Tiffany. Interessante però, questo anche per capire come funziona la Francia, a cui invidio in questo momento una cosa che ha già presentato, visto che poi parleremo nei prossimi giorni, un recovery plan. Dicevo, il fatto che Louis Vuitton Moanessi citi proprio esplicitamente la lettera del ministro francese per l'Europa e gli affari esteri, che ha detto: attenzione, finché gli Stati Uniti non ci fanno sapere cosa vogliono fare con i dazi, vi chiediamo di rinviare l'operazione. Lo dico perché quello è il modo in cui lavora la Francia. LVMH è un gruppo totalmente privato. Lo dico perché alcuni qui potrebbero immaginare, oddio, un intervento. E no, la politica estera della Francia, la Francia la fa anche così. Domanda finale: quanto c'è, secondo quello che tu hai capito, di scusa? Ossia, si prende pretesto una lettera, un invito del Ministero agli Affari Esteri e per l'Europa francese per far saltare un'operazione che diventava più rischiosa, meno conveniente, troppo cara, con i chiari di luna del lusso, e quanto invece c'è di politica estera? Ma pensa che persino Luca Solca di Bernstein, che insomma è uno degli analisti più che seguono meglio il lusso, dice: io non ho capito qual è il vero motivo di questo, quindi non mi espongo nemmeno io. Segnalo però che Tiffany ha già presentato a un tribunale del Delaware una richiesta di invece obbligare LVMH a rispettare i suoi impegni, perché dice: non ci sono fondamenti nella legge francese perché un ministro faccia una richiesta del genere a un gruppo privato. Quindi credo che si stia già ingarbugliando la vicenda. Segnalo soltanto che comunque Tiffany, come dicevi tu, è il secondo gruppo di gioielleria al mondo dopo Chow Tai Fook, che è cinese, quindi è un colosso ed è anche il più antico marchio americano, quindi del lusso. Perciò insomma tanti valori simbolici che probabilmente qui si mischiano alla pandemia, alla situazione geopolitica, al protagonismo, anche se vogliamo, di Donald Trump, di Bernard Arnault, e al fatto che questo è un anno di elezioni ed è sempre difficile avere delle certezze in un anno di elezioni presidenziali. Allora, adesso chiedo aiuto a Pindaro, perché passare da Tiffany ai banchi delle scuole e alla riapertura delle scuole è obiettivamente un volo pindarico. Qualcuno mi dice: capisco che vi interessi più Tiffany che la decurtazione degli stipendi dei dipendenti pubblici causa smart working. Io non ho notato nessuna decurtazione degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche perché tutto il ragionamento che abbiamo fatto sul lavoro a distanza o sul lavoro agile va a partire dal 15 ottobre, ripeto per la quinta volta, ammesso e non concesso che non vi sia nessuna proroga dello stato di emergenza, per cui il ragionamento era fatto dal 15 ottobre in poi. Poi la decurtazione degli stipendi dei dipendenti pubblici, mi dica dove l'ha vista lei, perché io non ho visto né decurtazione né, per fortuna per i dipendenti pubblici, licenziamenti. Temo che invece nel settore privato sarà un po' diverso quando verranno sbloccati i licenziamenti. Comunque, grazie a Giulia Crivelli. E adesso invece andiamo alla scuola italiana, un po' per fare un aggiornamento anche della conferenza stampa del Premier Conte e del Ministro Azzolina, ma anche perché c'è un rapporto OCSE interessante che la dice lunga sulle criticità del nostro modello scolastico. Ho fatto la battuta prima, non è il gioco del grande pennello, pennello grande, ma l'OCSE ci dice: guardate che il rapporto di studenti per classe in Italia è addirittura più basso della media dei paesi OCSE, 21-19 nella scuola primaria pubblica contro una media di 21 e 21 alle medie contro una media di 23. E quindi ne deriva che il problema non è quanti studenti hai per classe rispetto alla media OCSE, ma quanto grandi sono le classi in cui metti questi studenti. Può sembrare un gioco di tre carte, ma non è così. A proposito, intanto saluto il collega del Sole 24 Ore, Eugenio Bruno. Buonasera Eugenio. Buonasera. A proposito delle classi pollaio, come vengono chiamate, un termine che mi fa veramente schifo perché sembra quasi dare dei polli agli studenti. Il rapporto OCSE dice: le vostre classi non sono più numerose, anzi della media europea, e casomai sarà il problema degli spazi che sono più piccoli. Sentiamo due passaggi della conferenza stampa a Palazzo Chigi del Premier Conte assieme al ministro Azzolina. Nello specifico, da un lato il numero di consegne di mascherine chirurgiche per studenti e personale scolastico, e poi anche un accenno alle cosiddette classi pollaio. Abbiamo conciliato, dicevo, sicurezza ed efficienza, guidati sempre da indicazioni scientifiche. L'orario di ingresso potrà essere scaglionato per evitare affollamenti. Su questo però ne rispondono direttamente i singoli dirigenti scolastici. Saranno loro a decidere, d'intesa con gli enti locali, le esigenze anche del trasporto pubblico. Tutte le scuole hanno già a disposizione quantitativi sufficienti per gestire i primi giorni per quanto riguarda gel per disinfettare le mani, e anche quantitativi sono a loro arrivate, anche quantitativi di mascherine, di protezione, di dispositivi di protezione individuale. Sono mascherine chirurgiche, perché abbiamo predisposto la consegna di 11 e la distribuzione di 11 milioni di mascherine chirurgiche gratuite. Possiamo finalmente investire anche in prospettiva, grazie al Recovery Fund. Oggi abbiamo avuto un'importante riunione a livello di Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, abbiamo approvato le linee guida, ecco, possiamo investire ancora di più, alcuni progetti riguarderanno la scuola, non vogliamo più classi pollaio, vogliamo aprire i cantieri anche con le risorse finanziarie europee per scuole nuove, scuole digitalizzate, vogliamo una scuola rinnovata, più moderna, più digitalizzata, più inclusiva. Ecco che concludo rivolgendo un appello ai principali protagonisti di questa sfida, alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi. Voglio dire a loro, mi rivolgo a voi per dirvi grazie. Vi dico grazie perché sappiamo che siete stati voi a pagare il prezzo più pesante di questa emergenza. Ne siamo perfettamente consapevoli. La scuola chiusa, la didattica a distanza è stato un peso enorme per voi. Distaccarvi improvvisamente dai vostri compagni di scuola e spesso anche compagni di gioco. E certo la tecnologia che avete avuto a disposizione, tablet, cellulari, computer, non ha potuto sostituire e compensare la rinuncia che siete stati chiamati a compiere. Sì, aggiungo io, quando c'erano i tablet, quando c'erano i computer, perché il ragionamento che si faceva anche sullo smart working ricrea differenze, ripropone nell'ambiente che più di altri dovrebbe livellare le differenze sociali, cioè la fortuna o la sfiga che hai quando nasci, che è la scuola, invece ha riproposto il lavoro l'insegnamento a distanza da remoto a di nuovo differenze sociali. Dagli spazi che hai in casa al numero di tablet e di computer che hai, chiaramente con un vantaggio per le classi più abbienti, per le fasce sociali più abbienti, e uno svantaggio per le fasce sociali più deboli e meno abbienti. Prima di ascoltare Eugenio Bruno, un passaggio anche dell'intervento della ministra Azzolina, che ha detto interventi su 10.000 aule, un istituto su tre ha avuto almeno un intervento. Praticamente un istituto su tre ha avuto almeno un intervento. Questi sono interventi strutturali che resteranno nel tempo e che non abbracciano soltanto quello che è oggi il presente, il problema coronavirus. Sono oltre 5.177 le aule in più che abbiamo ricavato, 4.812 quelle che sono state ampliate, per un totale quasi di 10.000 aule in più. Abbiamo finanziato l'affitto di spazi esterni alle scuole, trovando soluzione alternativa alle aule dentro le scuole, comunque adatte ovviamente alla didattica, per oltre 200.000 studenti. E poi abbiamo investito sugli arredi. Non riapro qui il dibattito sui banchi, ma abbiamo recuperato in 2 mesi un ritardo di 20 anni. Allora, sì, in 2 mesi aggiungo io, perché potevate muovervi prima, dopodiché non posso tornare su una polemica che ho fatto maggio, giugno e luglio, in tempi non sospetti. Allora, Lazzarina poi ha aggiunto, se a giugno gli studenti che sostanzialmente erano senza un'aula per via del metro di distanza erano 1 milione, oggi sono solo, tra virgolette, 50.000, questo non significa che non andranno a scuola, andranno anche senza il metro di distanza, ma mettendo la mascherina per questo inizio di anno. Sono comunque situazioni che stiamo risolvendo grazie ad altri 100 milioni di euro per prendere in affitto altri locali e grazie agli accordi con teatri, parrocchie o scuole paritarie. Allora chiede a Eugenio Bruno il compito non facile di tenere assieme, da un lato, il rapporto dell'OCSE di oggi, Education at a Glance, quindi uno sguardo o lo stato dell'arte del sistema educativo, che ci dice appunto che non abbiamo un numero di studenti per classe più alto della media, anzi, ma siamo il paese tra i paesi con il lockdown più lungo, 18 settimane a fine giugno contro le 14 settimane degli altri paesi. Solo la Cina ne ha fatto più di noi, 19 settimane. E di tenere questo con invece le ultime novità arrivate dalla conferenza stampa congiunta del Presidente del Consiglio e del Ministro Azzolina. Allora, il compito diciamo è un po' più facile del previsto. Bene. Forse grazie ai protagonisti, perché nello stralcio che abbiamo sentito poco fa è stesso Conte che parla, stavolta lui e non la ministra, di classi pollaio. Allora, i nodi, più o meno il tema, la fotografia è quella che abbiamo raccontato quest'estate quando ci siamo sentiti sia a luglio che ad agosto. La differenza è che si è deciso che le scuole dovevano riaprire il 14 e quindi adesso le scuole in gran parte d'Italia riapriranno il 14, riapriranno senza banchi perché la consegna è appena all'inizio e andrà avanti fino a fine ottobre, riapriranno con tanti docenti che ancora mancano, soprattutto i supplenti, ne serviranno come minimo come l'anno scorso, i primi saranno nominati solo nel weekend, ma sarà più o meno, dovrebbero essere 60.000, neanche la metà di quelli che serviranno subito. L'altro aspetto è quello degli spazi e delle aule. La ministra, in realtà sono stati dati tanti numeri nella conferenza stampa di oggi, a volte neanche corretti. La ministra parla di altri 100 milioni per le aule, in realtà sono arrivati altri 30 milioni, perché i 70 già erano stati stanziati dal decreto agosto. Nel decreto sui trasporti, quello della settimana scorsa, che è andato in gazzetta ieri, ne sono stati aggiunti 30. Ecco, dice che ne mancano 50.000, o meglio, che al momento ci sono 50.000 alunni che non hanno un posto in aula e che dovranno stare al banco con la mascherina. In realtà, per alcuni di questi, da quello che ci risulta, il banco non ci sarà proprio, quindi saranno seduti sulla sedia. È una scelta che alcune scuole, soprattutto superiori, ho visto con i miei occhi una circolare di una scuola superiore che prescrive, diciamo, questa soluzione. In attesa del banco monoposto, togliamo i banchi doppi perché così recuperiamo spazio. I ragazzi stanno solo sulla sedia. Un'altra soluzione è la didattica a distanza. Sempre alle superiori, alcuni ragazzi da lunedì, per chi apre lunedì, alterneranno la presenza in aula con la presenza da casa. Metà classe in aula, metà classe da casa, magari 3 giorni in aula, 3 giorni da casa divisi in gruppi. Ecco, questo è lo scenario. Spero siano solo 50.000. A inizio settimana solo nel Lazio mancavano 1.000 aule. 1.000 aule per 20 studenti fa 20.000. Non lo so. È vero che la situazione è in evoluzione giorno dopo giorno. È anche vero che molti presidi stanno provando in queste ore a chiedere un rinvio, quindi anche nelle regioni dove si parte il 14 hanno chiesto di partire il 24. Questo è lo stato, diciamo, questa è la cronaca. Poi ieri è arrivata l'OCSE. L'OCSE, diciamo, ne ho scritto, è un appuntamento fisso, tutti gli anni a inizio anno scolastico arriva il rapporto OCSE, che ha il pregio di guardare le cose da lontano, quindi di guardarle uscendo dalla dialettica quotidiana quasi sempre politicizzata sulla scuola, e poi ci mette a confronto con gli altri, cioè ci posiziona, ci dice dove siamo. E viene detto esplicitamente che il numero di alunni per classe non è superiore alla media europea, ma che c'è un problema di strutture. Questo rende un po' smonta la retorica delle classi pollaio, che però vedo che continua. Dall'altro lato però ci fa capire che il problema ce lo porteremo avanti per anni. Ora speriamo di superare il prima possibile la pandemia, ma se le scuole sono vecchie e se le aule sono piccole vanno ricostruite, non basta il tramezzo. Beh, non basta il dire, cioè, è uno dei piani del recovery fund di cui abbiamo parlato ieri, del recovery plan, cioè investire in infrastrutture. Sono i sei pilastri che ricordava Gianni Trovati, c'è anche strutture sanitarie e plessi scolastici. Io spero appunto che tutto non si esaurisca, non si fermi con i banchi a rotelle o magari con qualche soluzione provvisoria. Hai fatto bene a ricordare che ogni anno c'è, e da decenni, il problema delle supplenze, quindi non è colpa del ministro in questo caso se vi sono ogni anno da trovare i supplenti, però quello che dico io è che queste ultime incertezze a mio avviso si sarebbero potute ridurre se la stessa intensità di lavoro politico e anche, diciamo, dei comitati l'avessimo vista a maggio e a giugno, quando invece lamentavamo, ma non mi piace dire l'avevamo detto, un silenzio totale proveniente sia dal CTS sia dal ministro Azzolina. Non, noi ci ponemmo il tema anche si può fare entrare per un giorno i ragazzi, ma non c'era neanche una dichiarazione chiara su quello che sarebbe successo a settembre. Questo è il rammarico, che sicuramente in tutti i paesi, vedo la Francia, vedo la Spagna, ci sono problemi, non è facile, è una situazione drammaticamente nuova, però proprio perché è nuova, prima parti meno, diciamo, nodi al pettine ti restano. Noi con Eugenio Bruno ci risentiremo sicuramente dalla prossima settimana, quando il grosso, non tutte, alcune hanno aperto, poche, altre lo faranno dopo le elezioni amministrative. Vedremo anche la situazione, che sarà sicuramente molto molto variegata, al di là del nostro Radio Day e dell'appuntamento con Maria Piera Ceci nel programma di Alessandro Milan ogni lunedì mattina. Radio Day sarà lunedì mattina. Intanto grazie a Riccardo Bruno, è veramente tutto per questa puntata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.